Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, nuovo appuntamento con la rassegna estiva di Essere e Avere. Dalla produzione dei mesi scorsi per questa puntata abbiamo selezionato la riflessione su startup e incubatori, uno dei settori sui quali l'Italia vuole e deve scommettere. Molte di queste startup innovative, che hanno ormai superato quota 2000 nel paese, intercettano le nuove abitudini di consumo e di vita che segnano, come ci piace ripetere, il cambiamento. Ecco perché abbiamo voluto saperne di più. I brand puntano sui parchi a tema, la nuova scommessa per i consumi culturali, ma non solo, e non solo per i bambini. Per il focus sui trend torniamo invece a parlare di de-junking, la tendenza che sta trasformando anche lo snack food in cibo sano. E in chiusura, come sempre, la riproposizione di una delle tappe del nostro Italian Factor, Made in Italy e tempestività, il tema di questa puntata. If you want to live here, you've got to deliver. Like Steve. Jobs or Wozniak? Steve Jobs or Steve... No, I heard you. Which one? Jobs. Jobs was a poser, he didn't even write code. Silicon Valley is the cradle of innovation. Your compression algorithm blew our engineering team away. We have the resources to take what you have done to the global level. I'm prepared to give you $200,000. $600,000 for 10% of your company. 10 million! Era Silicon Valley, la serie TV sulle startup che ha appena debuttato negli Stati Uniti, protagonisti quattro amici nerd che si muovono sotto l'occhio vigile di un milionario .com alla guida di un incubatore a Palo Alto, la capitale della regione più tecnologica della California. Un mondo, quello delle startup e dell'innovazione tecnologica, di cui si parla e si scrive molto in questo momento, anche in Italia. Abbiamo voluto capire come si muove una di queste realtà, Digital Magics, un incubatore certificato, un acceleratore di startup innovative e digitali. Lo abbiamo fatto facendoci raccontare innanzitutto due delle startup incubate. La prima è Growish, che offre il primo servizio in Italia per raccogliere denaro tra amici sul web e acquistare un regalo di gruppo tramite il metodo della colletta online, una sorta di colletta 2.0 per il regalo fra amici. Il fondatore Claudio Cubito. Era da un po' di tempo che ogni occasione di compleanno speravo che mi arrivasse la mia preferita tavola da kitesurf, ma poi alla fine, con un po' di parenti sparsi per tutta l'Italia, mia suocera non sapeva dove acquistarla, mia cognata era da un'altra parte, quindi nessuno riusciva a mettersi d'accordo e alla fine mi arrivava sempre il solito portafoglio, il solito cravatta. Quindi abbiamo iniziato a lavorare su una sorta di lista di desideri con cui potevi pubblicare online quelli che erano i tuoi desideri e invitare gli amici a esaudirli. Siamo poi in realtà accorti che il problema era sì quello, ma più fondamentale era quello che poi, una volta che avevano visto quello che desideravi, occorreva uno strumento con cui potessero mettersi insieme e far diventare questo desiderio, questo regalo realtà. E quindi c'era la necessità di creare uno strumento in cui ognuno potesse versare dei soldi e mettere insieme questi soldi in una colletta e poter poi quindi avere la disponibilità economica finanziaria per fare questo tipo di regalo. E ci siamo accorti che questo è applicabile a tante situazioni, diciamo così, la lista nozze è estesa ai desideri a 360 gradi, quindi non soltanto il mondo delle nozze, può essere quando c'è una nascita, può essere quando c'è una gita di gruppo, può esserci quando c'è da andare a fare una cena aziendale, oppure quella di salutare un collega quando magari sta cambiando lavoro. Quindi abbiamo lavorato sullo sviluppo di questa piattaforma che permette la raccolta di denaro online. Come funziona la piattaforma? Funziona tramite il supporto di un istituto bancario europeo, perché comunque c'è una normativa europea abbastanza forte che regolamenta quelle che sono le attività di raccolta di denaro, e quindi Growish non fa raccolta di denaro in prima persona, ma permette che chi decide di organizzare la colletta possa effettuare la raccolta di denaro attraverso lo strumento di Growish. Quindi abbiamo creato una piattaforma che si appoggia, per quanto riguarda le transazioni bancarie, a un istituto emettitore di moneta elettronica europeo, che è quello su cui i soldi vengono depositati momentaneamente, virtualmente, sotto la forma di moneta elettronica, e al termine della colletta vengono resi disponibili all'organizzatore, che può decidere quello che ne fa. Quindi potrebbe per esempio destinarne una parte a acquistare una gift card, una parte a comprarsi un altro regalo, eccetera. Quindi dà questa flessibilità di poter decidere in un secondo momento, anche se si vuole, la destinazione dell'importo raccolto. Il nostro obiettivo è quello che da qualsiasi pagina di prodotto, quando stai navigando un e-commerce e trovi qualcosa che piace a te, oppure pensi che possa piacere a un tuo amico che magari ha un evento da festeggiare, tu possa schiacciare un pulsante e immediatamente, questo l'abbiamo già sviluppato e lo stiamo implementando in alcuni siti, creare una colletta a fronte di quel prodotto. Poi inviti i tuoi amici, ogni amici versa, la colletta si chiude e tu con un altro click automaticamente fai in modo, ordini il prodotto e il prodotto arriva a casa, o tua se il regalo era per te ed era un tuo desiderio, oppure al tuo amico che hai designato se il regalo era per lui. La seconda startup che abbiamo scelto di raccontare è Derev, una delle principali piattaforme di crowdfunding italiane che punta a specializzarsi nel crowdfunding civico, ovvero la raccolta fondi online per enti pubblici e amministrazioni locali, associazioni e organizzazioni no profit per opere e progetti di pubblico interesse. Il fondatore Roberto Esposito. In un momento di crisi economica, anziché aspettare che arrivino investimenti, bandi pubblici, fondi o altro, chiunque può reinventarsi e autoprodursi utilizzando il web per raccogliere fondi e finanziare un buon progetto. Come funziona? Chiunque abbia una buona idea può andare sul sito, registrarsi in pochissimi minuti e creare una campagna. Nel momento in cui crea una campagna dovrà ovviamente presentare il suo progetto al pubblico con un video di presentazione, con delle descrizioni, con tutti i dettagli che vuole, e la campagna parte subito online, per cui lui può stimolare i propri sostenitori, i propri fan, il proprio pubblico a fargli una donazione tramite la piattaforma per finanziare il suo progetto. In cambio può ovviamente offrire delle ricompense, quindi dei gadget, degli omaggi, oppure l'idea stessa che lui vuole realizzare, per appunto invogliare poi gli utenti della rete a contribuire, e la rete fa in modo che questo diventi virale, quindi si moltiplichi a macchia d'olio andando a raggiungere le persone sui social network e quindi raggiungendo anche i grossi importi. Abbiamo ricevuto più di 10.000 campagne in un anno di ogni tipo, quindi ci sono dagli artisti che finanziano gli album musicali, i cortometraggi, gli spettacoli teatrali e gli eventi, così come abbiamo anche cause sociali. Oggi la campagna più grande mai realizzata in Italia è stata fatta su Derev ed è stata fatta per ricostruire Città della Scienza, il museo di Napoli che un anno fa fu distrutto da un incendio, e noi simbolicamente abbiamo chiesto agli utenti di raccogliere 100.000 euro come segnale da parte dei cittadini che volevano ricostruire il museo. Oggi abbiamo raccolto quasi 1.200.000 euro. Abbiamo oltre 15.000 donatori, con un pubblico di più di 6 milioni di utenti iscritti al sito e iscritti ai nostri social network. Abbiamo davvero campagne di ogni dimensione, dal livello locale, pochi cittadini che finanziano un progetto locale o artisti e innovatori, a campagne invece di portata nazionale che raccolgono anche milioni di euro. Sempre più spesso i cittadini si organizzano per migliorare anche piccoli aspetti della propria città, dal risistemare un'aiuola, all'installare il wifi nel proprio quartiere, all'inventare app per il trasporto pubblico e via dicendo, e quindi Derev ha creato delle sezioni speciali proprio per i progetti di crowdfunding civico, quel crowdfunding in cui i cittadini si organizzano per finanziare e migliorare i servizi della propria città, dal ripulire un monumento a creare un servizio innovativo. Nel mondo digitale in Italia c'è un grande fermento, è come se fossimo nel dopoguerra, ci dice Enrico Gasperini, fondatore e presidente di Digital Magics. C'è un grande fermento in Italia, questo ha reso il settore finalmente più competitivo rispetto agli altri paesi, sia per quanto riguarda i bordi delle università, quindi gli spin-off di ragazzi che escono, magari supportati dai professori universitari, piuttosto che la creazione da parte di giovani team di idee innovative sul digitale, piuttosto che la creazione di società basate su idee che includono internet nelle cose, il settore Internet of Things, quindi tutto il settore dei maker. Dal punto di vista digitale l'Italia è un po' in un periodo di ricostruzione, come fossimo nel dopoguerra, dobbiamo recuperare 2 o 3 punti di PIL digitale e quindi si creeranno centinaia e migliaia di aziende che operano nei territori più svariati del digitale sull'onda di internet, dal commercio elettronico, ai servizi per le imprese, ai servizi per il cittadino, a quelli di government, a quelli di education, insomma ci sono veramente infiniti territori di lavoro e i talenti italiani sono molto ricercati, sono molto bravi, abbiamo ovviamente da recuperare un gap enorme sul finanziamento di questo mondo. La quota di finanziamento nel venture capital early stage in Italia è un decimo rispetto al PIL, rispetto alla media europea, quindi siamo molto indietro, un settore che è stato riscoperto solo recentemente, che però è vitale e strategico per il paese perché garantisce nuovi posti di lavoro, eccetera. Il sogno di tutte le start-up è quello di arrivare ad essere, a non essere più una start-up, insomma. C'è tutta una, come dire, adesso un'aspettativa che una qualsiasi startup possa diventare Google o Facebook, ma l'obiettivo è quello di costruire un'impresa che opera bene almeno sul territorio nazionale, che poi magari sia in grado anche di arrivare in altri paesi europei e quindi che passi raggiunga il primo obiettivo, che è quello di sopravvivere e di crescere e di creare dei posti di lavoro, è un bel ambiente in cui lavorare. Poi è chiaro che ciascuno ha un sogno nel cassetto di fare la Google o la Facebook della situazione ed è bene che ce l'abbia, e quasi tutti i team molto spesso sono animati da questo furore e questa ambizione, va bene che sia così, però bisogna essere realistici, le start-up tecnologiche sono un pezzo importante della nostra imprenditoria che deve crescere. Se riuscissimo ad averne alcune decine di migliaia che operano bene e aiutano il paese nella capacità di costruire posti di lavoro e innovare la nostra economia, sarebbe per i singoli individui e per il sistema un gran bel risultato. Ho letto proprio in queste ore una dichiarazione del fondatore di Atari, nonché talent scout di Steve Jobs, che ha detto: la prossima Apple potrebbe nascere in Italia. È d'accordo? A mio avviso sì, nel senso che noi uniamo un gusto straordinario con anche un grande talento in questo tipo di discipline che uniscono scienze umanistiche, tecnologiche e anche capacità commerciale, quindi di portare il nostro brand nel mondo. Made in Italy non è uno scherzo. Occorre che questo mondo sia meglio finanziato, quindi non mancano i talenti, non mancano le idee per fare le nuove Apple, farle nascere dal paese, mancano in maniera incredibile, in maniera enorme, finanziamenti in quest'area. C'è qualche fondo, qualche risparmiatore che comincia ad essere attento a questo tipo di fenomeno e a questa asset class, ma sono ancora molto pochi, stiamo parlando di un centinaio di milioni di investimenti in tutta quest'area in un anno nel paese, sono veramente piccole cifre, quindi bisognerebbe fare un appello complessivo a tutto il mondo del risparmio, al governo e alle istituzioni, che detto in due parole è: investite, investite, investite in quest'area e ne trarrete beneficio voi e il paese. Essere e avere. Da Shrek alla Ferrari, passando per Angry Birds, Peppa Pig e Italy, il direttore di Markup Cristina Lazzati ci parla della nuova scommessa per i brand, i parchi a tema. Quando si parla di brand experience, che cosa c'è di più immersivo di un parco a tema? Lo sa molto bene Disney, che da decenni ha creato il suo non luogo, per dirla con Marco Gé, dove generazioni di bambini e anche adulti hanno potuto toccare con mano il castello della Bella Addormentata, posare con Winnie the Pooh e applaudire alle sfilate dei loro personaggi preferiti. Entrare nell'immaginario collettivo con un parco a tema non è cosa da poco, ma sembrerebbe tornata la voglia di sognare, e così Merlin e DreamWorks hanno annunciato per l'estate 2015 l'apertura di Shrek's Far Far Away Adventure nella South Bank di Londra, vicino a London Eyes. Non mancheranno, oltre a Fiona e Ciuchino, anche i protagonisti di Madagascar e Kung Fu Panda. Sempre in Gran Bretagna è stato aperto nel 2010 il parco dedicato a Peppa Pig, da provare il castello ventoso e la nave di Nonno Pig. Tutti presenti gli amici della maialina, da Danny Cane a Rebecca Coniglio. In Florida quest'estate raddoppierà ad Orlando il mondo di Harry Potter, con l'aggiunta della mitica Diagon Alley e di una Londra piena di magheggi. Anche la cultura internet non è scevra dal suo parco a tema, e in Cina a fine 2013 ha aperto il parco dedicato agli Angry Birds. Sono bambini? Non sembrerebbe, visto che a seguito del successo di Abu Dhabi è in preparazione in Spagna Ferrari Land nelle vicinanze di Barcellona. L'apertura è prevista per il 2016, investiti 100 milioni di euro per 75.000 metri quadrati, con hotel a 5 stelle per 250 persone. Così gli amanti della Formula 1 potranno cimentarsi in velocità impossibili. In Italia è stato annunciato FICO Italy World, la fabbrica italiana contadina, il primo parco a tema dedicato al cibo. Investimenti per 40 milioni di euro, apertura nel 2015. L'agroalimentare diventa così divertimento, assaggio e conoscenza, stalle, acquari, campi, orti, officine di produzione, laboratori, banchi serviti e grosseri, persino ristoranti, un vero e proprio itinerario della produzione del gusto, come lo ha definito Farinetti, che con il CAB di Bologna ha ideato il progetto. Lo adoro! Per la prima volta nella mia vita, tutti amano una cosa che ho fatto io. Posso avere le calde? Carne! Vado pazza per la gelatina! La pizza ci insegue! Devo fermare la macchina! Il futuro del mondo dipende da me! Focus sui trend. Ebbene sì, è finita l'era del junk food. Complici le istanze salutistiche, anche lo snack food diventa naturale, bilanciato, in una parola, sano. La forma, per così dire, resta la stessa: cibo veloce e comodo da mangiare on the go, ma la sostanza è tutta nuova, tanto che si parla di de-junking, una sorta di processo di liberazione dal cibo spazzatura. È una tendenza che, innescata da un consumatore sempre più informato e attento alle proprie abitudini alimentari, ora è arrivata anche all'industria alimentare, sempre più determinata a de-junkizzare appunto la propria offerta. Ne parliamo come sempre con i ricercatori di Future Concept Lab. Linda Gobbi, ben ritrovata. Ben ritrovata a te, Maria Luisa, e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. È così, Linda, è finita l'era del junk food? Sì, possiamo dire che la parte critica del junk food, inteso come cibo spazzatura, non è più in linea con la sensibilità delle persone, ormai educate, come hai ricordato, a un'alimentazione sana, per filiere corte, per ingredienti, per preparazione, per alimenti che si scelgono a casa e nella ristorazione. Ma vi è un altro significato di junk, che è giunco, l'erba flessibile che si adatta al vento. Ecco, in questa accezione di cibo flessibile che si muove come un giunco, come un'imbarcazione in un fiume, ecco, questa accezione di snack adatto alla molteplicità delle occasioni quotidiane e quindi a tutti i fuoripasto che ormai sono entrati nell'abitudine di tutti noi, ecco, in questa accezione, e quindi uno snack sano, buono e veloce, questo ha molto senso oggi. Noi parliamo di nuove opportunità per un mondo quick, quindi veloce, rapido e deep, che considera la profondità di gusto, di piacere, ma anche di cultura e conoscenza, un paradigma molto interessante. Ecco Linda, facciamo qualche esempio di prodotto. Come si concretizza il de-junking? Il primo esempio riguarda in particolare un'innovazione nei metodi di cottura, che è l'area di ricerca più importante per offrire un cibo più sano, in linea con le nuove sensibilità. Un esempio che ci viene da San Francisco, si chiama l'azienda che lo offre Pop Chips, e che cosa fa questa azienda? Propone le classiche patatine, oggi non più fritte, ma come processo di cottura usano un grande soffione di aria calda, ecco perché pop, come i popcorn, e sono assolutamente salubri, riducono di gran parte i grassi e sono altrettanto gustose, perché il lavoro poi sul gusto è molto interessante. Un altro esempio interessante che lavora sull'innovazione, e qui in particolare sull'ongoing, sulla mobilità, sul trasporto ed essere comunque in linea con le richieste di principio nutrizionale, riguarda un'azienda, ancora una volta dagli Stati Uniti, siamo nell'Oregon, Paul Werner, che nel 1985 lanciò il primo hamburger green, tutto vegetariano, oggi a distanza di 30 anni ci offre una barretta barista che si chiama Garden Bar, che propone un giusto apporto di proteine perché lavora sulle nocciole e la granaglia, ma da un gusto assolutamente nuovo che riguarda tutte le culture paese autentiche, e quindi un gusto indiano, un gusto giapponese, wasabi, la cultura messicana, ma anche la cultura italiana mediterranea. Ancora un esempio, secondo noi altrettanto interessante, per questa tendenza attraversa tutto il mondo, ci viene dall'Oriente, Cucurais Café, è una catena taiwanese, oggi assolutamente presente in Cina, grande successo. Anche loro che cosa fanno? Lavorano sull'origine del cibo, della cultura paese, offrono dei fan tuan che sono delle polpette di riso, assomigliano ai nostri arancini, ripieni di carne o verdure, ecco il corretto apporto di vegetali e proteine animali, ma i processi di cottura sono assolutamente salubri, cucinati a vapore, il riso assolutamente biologico, e l'offerta in questa catena si completa anche con delle bevande dove il processo, ancora una volta innovazione, è la liofilizzazione per offrire tutti gli ingredienti nutritivi, ma in una confezione più moderna, più adatta ai tempi, nel caso in cui si volessero portare i cibi anche a casa. Ecco che slow food e fast food non sono più contrapposti, e riprendiamo il concetto di giunco e quindi di flessibilità, perché lo snack non è solo fuori casa, come il gusto non è solo nello slow food. Un'azienda, un progetto milanese, in realtà è un giovane ragazzo turco-milanese che a Milano con Super Cups, la super zuppa offerta in un bicchiere di cartone, questa idea l'ha avuta ritornando da New York, dove ad esempio Starbucks offre il suo caffè nei bicchieroni di cartone, lavora sulle zuppe dagli infiniti gusti, assolutamente healthy, salutari e salubri, un takeaway che porti a casa. Il packaging è importantissimo, sia da un punto di vista estetico, ma soprattutto per materiali. Tutti gli esempi che abbiamo raccontato oggi hanno una interessante innovazione di packaging che ha un elemento di servizio, un elemento di gradevolezza e un elemento di funzionalità per preservare correttamente tutto ciò che viene offerta, dalle barrette alla patatina. Da questo punto di vista c'è ancora un esempio a suo tempo, che è un'azienda inglese che offre il proprio snack, sono semplicemente delle uova sode cucinate ad alta temperatura, apri questo sacchetto e fai il tuo snack con un uovo di quaglia, l'offerta è amplissima, tanti tipi di uova e tutte le misure, ma l'innovazione è stata proprio nel sacchetto che offrono, è un particolare materiale che garantisce sapore e naturalmente freschezza dell'uovo sodo che andrai a consumare nel tuo spuntino. Italian Factor. In chiusura, come sempre, ci ha raggiunto in studio il nostro ospite fisso, Francesco Moraci. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. L'Italian Factor come moltiplicatore del valore di un paese, scrivi Francesco nel tuo libro, attraverso un percorso fatto di elementi di attivazione. Siamo a questa fase. Quale è quello di oggi? Quello di oggi è molto articolato e interessante, è la tempestività. Allora, qui dobbiamo premettere che la velocità e la tempestività sono due cose diverse. Gli americani usano due termini diversi. Fast è la velocità, l'accelerazione. Quick è la tempestività. Oggi le aziende italiane devono imparare ad esserci nei luoghi in cui vengono desiderate e a farlo in modo tempestivo, che non vuol dire necessariamente essere solo veloci, bisogna anche essere lenti nella riflessione. È proprio la differenza tra il kairos dei greci, che era il tempo dell'opportunità, e il chronos, che invece è il tempo cronologico, quello che purtroppo ci insegue e ci rende la vita anche un po' stressante. Quindi è un valore che può affiancare anche l'artigianalità. Esattamente. Pensiamo alla sartorialità tipica del nostro paese o ai grandi sarti napoletani. Bisogna essere bravi nel preparare il lavoro, però poi tempestivi nel personalizzare, cioè nel cogliere magari il difetto del corpo del tuo cliente e saperlo trasformare in bellezza. Ecco, quindi questo elemento di tempestività mette insieme l'attenzione artigianale con un esserci che però non può essere distaccato dai tempi di vita che oggi noi viviamo. Tu per questo elemento fai un esempio, un paragone musicale, raccontiamolo. Sì, allora è chiaro che il concetto di improvvisazione in questo fattore della tempestività è fondamentale. Allora la storia del jazz e i grandi musicisti di jazz avevano questa straordinaria capacità di improvvisazione perché però avevano anche anni e anni di allenamento, ecco, quindi essere tempestivi significa anche allenarsi all'eventuale elemento inaspettato a cui bisogna reagire, no? Quindi il talento e la velocità e la tempestività sono e possono essere per le aziende italiane la direzione per il futuro. Grazie a Filippo Aureggi in regia. Il meglio di essere avere torna sabato prossimo, come sempre, alle 16:30. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.